beh, certo che sì, ma è così in effetti. E aveva al limite, potete ripiegare anche su quel problema lì, cioè su quel fatto lì. Solo i blu che la bricco come vendono di quelli dei fatti in cemento, pavimentare con quello va ugualmente bene, la strada rimane sempre bella pulita, non si formano pozzanghere, eccetera, eccetera. Sono lastroni e cioè lastroni, sono mattoni di cemento, spesse, saranno grandi, con la cinquantina di centimetri, sono dei blocchi, sono pesantissimi, non si spostano nemmeno, una volta che sono ben piantate per terra, no, anche se passa la macchina non si spostano nemmeno, per cui se si risparmia, quindi non è che costano un granché, quindi costano poco. Tu mi dirai, ma sono 400 metri di strada, beh certo, 400 metri di strada, sicuramente ce n'è un bel numero da mettere, certo, però non credo che sia poi come fare d'asfalto, No, giù, sì, bitume teatro del costa, io lo so perché quando ero al lavoro che c'era la collaborazione totale dell'officina turitana, l'officina turitana c'era l'impianto di bitumaggio e costano barca di soldi, avevano asfaltato due impianti, avevo visto le fatture, era pazzesco, ma no, cioè pazzesco veramente. Mi pare 30-40 mila euro, vabbè che i chili di naffo uscivano in volte, ma tre piazzali di un impianto grosso, tipo quello di Trunco Reale, non so se l'hai mai visto, eccetera, un sacco di soldi. Beh, sicuramente sì, so che il bitume costa, altro che, anche perché ci vuole l'impiego di macchine un po' particolari per la bitumazione, certo, ma questo sì, è ovvio. Appunto, potrete anche ripiegare su un altro sistema, si può fare una bella strada ugualmente facendolo con un altro sistema, perché no, quello voi lo vedete voi chiaramente. Chiedete preventivi, poi ve regolate, ragionate e per quello che più vi conviene fate, scegliete. Ciao Pagappa, perché è un bel larga, eh? È larga, capito? Stringe un po' dove sono io, perché l'ingresso è molto largo, poi si gira a sinistra, le prime due sono su in punta, poi si gira a sinistra, ci sono gli altri due a scendere di villetta. Lì è un po' più stretto, però già lì nel reggimento e blu. Sì, anche Ancigliano ha detto che è molto più conveniente fatta cemento, perché bettumiere quelle grandi da 9 metri cubi, c'era 9, da 11 mi sembra, quelle grandi, non costano molto. Massimo arriva a 1000 euro a bettumiera, ma 9 metri cubi li vai di strarosso, a voglia, capito? Non fai altro che iniziare dalla via, salire in uscita e va bene. Le macchine si lasciano fuori nell'altro piazzale e va bene, fino a quando asciuga, capito? Tanto avevo due o tre fabbricamurimoni, cosa a tirare i liscri, a fare i livelli, a mettere le canalizzazioni, insomma, pure fatto una cosa fatta bene, se non sarà caduto. Beh certo che sì, per fare un bel lavoro ci vuole una cordonata, bisogna fare, non so, forse sono a blocchetti, così almeno anche nei blocchetti potete mettere anche i fari per l'illuminazione, dunque viene anche meglio senza stare lì a scavare per l'impianto, eccetera, fate passare sopra i blocchetti e stesso i tubi, vanno anche meglio, così non subiscono nemmeno l'umidità del terreno, eccetera. Come ha fatto mio cognato la campagna ha fatto così, ha regravulato, è un ingresso formidabile, se tu lo vedi, vabbè lui di mestiere è l'impresario, per cui i lavori già se li ha saputi fare, ma per dire, ha fatto proprio così, ha fatto un muro da una parte e dall'altra, un muretto quanto sa, due blocchetti uno sull'altro, e poi ci sono tutti i faletti da una parte e dall'altra, sembriamo in Piazza Italia quando accende tutto, illuminata a giorno, è proprio bello, bello, bello. E appunto l'ingresso, come ti stavo dicendo, è fatto così, con questi blocchi di cemento, ma è bellissimo, e ce l'ha 25-30 anni ormai questa campagna, così non si è mai, pensa che ci abita lui, per cui la macchina entra e esce tutti i santissimi giorni, non solamente lui ma anche i figli, per cui va bene così. No, grazie a Dio, come illuminazione già siamo messi bene. Ti ho detto, io ho un neon da 1,5 m in veranda. poi ci sono i faretti quelli a LED, quindi è bello illuminato, ma è molto tranquilla come zona, tranquillissima, non posso lamentare. Io i primi giorni avevo paura a tenere le finestre aperte dalla parte del cammino, praticamente da dietro non si vede la strada. Adesso stiamo dormendo con le zanzariere abbassate, quando ho messo le zanzariere le finestre aperte, no, è tranquillo, tranquillo, sono più che contento. Certo che sì, e più tempo passa e più la si semina nel migliore dei modi, certamente così, perché tutti fanno così, ovviamente, perché inizialmente uno tutte le idee che si possono fare non ce li ha nella mente, ma con l'andare del tempo uno si rende conto e si fa le cose proprio su misura e a suo piacimento, è normalissimo, no? C'è tempo, piano piano qua, hai realizzato il sogno della tua vita e va bene così. Lo so, ci ho messo tanto tempo, però ci sono arrivato piano piano, sacrifici tantissimi e ancora ne sto facendo. E infatti mia moglie dice la campagna è una macchina da soldi, veramente, tutti i santi giorni devi prendere roba, ma ci manca quello, sì, qui ci sta bene questo, va bene, prendiamo questo, già, mamma mia. Sì, ma è così, infatti è così, prima di assestarsi proprio, diciamo, il sistema a casa, manutenzione, eccetera, ci passa un bel po' di tempo. Intanto nel frattempo i soldi se ne spenderanno tanti, ma è normale qua, è normale, ti fai tutto su misura, è chiaro, un'idea tua, un'idea dei tuoi familiari, ed ecco che i soldi li cacciate, perché sono sicuro che li cacciate per forza, perché poi decidete di fare per migliorare sempre di più la situazione, la casa, eccetera, che è normale, no? È così. La figlia ogni tanto mi aggiorna, papà, il conto scende e lascialo scendere, già risale che si va tutti, presso la saluti, lascio proprio ieri, sto dicendo perché papà andiamo al Falgarve, prendiamo, ci sono quegli alberelli bellini, li mettiamo nel vialetto dell'ingresso e così fanno coso, fanno i fiori, fanno, vabbè, andiamo a vedere. Devo andare a vedere queste cose, delle palmette, delle insomma. Venne, però vai, piano piano Giulio, e siamo sani. E infatti, quella è la cosa più importante. La ricchezza più importante è sempre quella, la salute, poi i soldi vanno e vengono, si sa. Lo sappiamo che è così, ma è chiaro, no? E poi è bello anche, dai, è bello. E poi se non te la guardi adesso la casa, che sei ancora giovane, poi c'è tua figlia che è ancora giovane, tua moglie è altrettanto giovane, quando te la guardi, quando hai 90 anni, hai 90 anni devi stare seduto da una parte con un bicchiere, mezzo bicchiere di birra, ogni tanto un sorsettino e ti raccampare, ma adesso l'età tua, quella di la fuggi, fai cla, che ancora sei in piena salute, grazie a Dio, e tutto quello che fai è per migliorare, è solo e basta. I soldi si sa, vanno e vengono, grazie a Dio la pensione ce l'hai, tua figlia è sistemata, eccetera. Cosa ti nafutti dei soldi? I soldi vanno e vengono, sai cosa diceva qualcuno una volta? Avere i soldi e non spenderli, è come non averli, e va via ragioni. No, io non sono di quelli, cerco sì di fare le cose fatte bene, perché da parte ci vogliono, non è quello, però se le cose sono da comprare non faccio mancare niente. Io penso solo, non mi ricordo se 500, 600 euro sono tra bastoni e tende, e quello è fatto. Poi vabbè, Tandarelli li ho fatti adesso, anche lì un bel botto che sono tutte quelle a rullo. Poi un sacco di cose che ancora mi, perché sto cercando dove posso risparmiare, perché questa se non si può comprare tutto. Il motore del cancello, adesso sto guardando i vari su internet, se lo trovo prendo il motore del cancello, devo ancora mettere il motore del cancello, e poi penso di, insomma, le cose grosse le ho fatte tutte, poi per abbellire già è abbastanza bello. Mi è venuto Franco a trovare. compagna. Sono rimasti qua a pranzo da poco. Dovevamo fare alcune cosettine, alcuni lavoretti. Le è piaciuta tantissimo, soprattutto a lei. Ma vabbè, Franco già ha detto che era molto bella, lei molto entusiasta perché lei ce l'ha, la campagna è diversa, questa è completamente diversa da quella sua, è tutta su, io sono sotto, sopra è un'altra cosa, però è molto bella, molto ampia, tutta vista, tutta bella, proprio maneggevole, in gergo Pucaccione, proprio maneggevole, ti muovi tranquillamente da tutte le parti. Certo, meglio così, dai, meglio così. Mia figlia ci passa tre volte alla settimana lì davanti a dove sei tu, dai, perché va al lavoro. Tre volte alla settimana, un giorno sì, un giorno no, penso un po'. Va bene, va bene. Sono contentissimo comunque per te qua, veramente, credimi. Te lo dico di vero cuore, sono contentissimo che tu sia riuscito a realizzarti quello che ti avevi prefisso qualche annetto fa. Sono veramente contento, io sono sempre per la persona che ha lavorato, perché penso benissimo che chi ha lavorato ha sofferto tra virgolette, però ha sacrificato, dai, la parola più giusta è quella, ha sacrificato, dunque se uno ha sacrificato merita, e dunque tu sei un equilibrio. Quante volte ne abbiamo parlato, ma sempre domenica della Valle, io non me ne perdevo una, perché c'erano più quattrini, capito, le feste, no, io sono battesimo, ancora c'è, la vengo io, faccio io, vai, ero battissimo, tu vai, già me il migliore di natura, quindi a me piaceva guadagnare soldi lavorando, non andavo a giocherellare, c'era da trattenersi, mi trattenevo, facevo, soprattutto in questo periodo, per me il periodo dove si guadagnava un sacco di soldi era da maggio sino a settembre anche i primi di ottobre, uscivo la mattina alle 6 e entravo la sera alle 6 con un panino, a volte andavo in mensa, a volte ci mettevamo d'accordo con alcuni colleghi responsabili, facevamo rientro, andiamo a mangiarci una cosa lì a Santa Maria Covina, aiuta, andiamo da un amico, ci facevamo fare una pasta, un po' di carne, un po' di salata, patate fritte eccetera, giusto per mangiare sempre panini, però si camminava forte, io poi ero in una zona, mamma mia, una zona a rischio terremoto, perché se sbagliavi li pagavi, tutta piena di villaggi, tutta piena di roba turistica, quindi dovevi stare occhi aperti, sempre, perciò ho dato tantissimo, e adesso va in pensione un mio collega, Gabriele mi ha invitato a fare la festa a Montentosio come ho fatto io lì a Nulvi e ci devo andare, già sono vicino da qua, anche lui era in coppia con me, grandissimo lavoratore, grandissimo operaio veramente, e a me sai qual è che mi ha, la cosa che mi ha un po' trattenuto, qual è Giulio, sono io già qua, ci dovevo essere da un paio d'anni, capito, invece non riuscivo a vendere la casa di Sassari, non riuscivo a venderla, tutti la volevano, da Ziani a domandare un mutuo, non era Ziani, capito, e quindi mi ha trattenuto a quello, poi alla fine ho trovato una che praticamente se dice lei va a cash e la compra da subito. Sì, perché succede sempre così, e dunque comprare una casa non è che sono due noccioline, no? Comprare una casa ci vogliono un bel pacchetto di soldi, per cui non sono tutti che ce l'hanno, va bene, tanta gente tenta il mutuo eccetera eccetera, tutto quello che vuoi, però anche per il mutuo uno se non ha le garanzie non gliele danno nella maniera più assoluta, perché cosa ti danno? Fare mutuo, ti possono dare a soldi 60-70%, però devi avere una bella porzione di budget, perché se no non ce la faresti mai a comprarla, perché la casa per intero non te la paga la banca, per cui è così, non so, non è facile anche quello, ottenere un mutuo per comprare una casa oggi. Uno ce li ha già da prima i soldi, allora diventa più facile, ma se uno non ne ha e spera di avere la casa solo esclusivamente col mutuo, no, non è facile, vai, non è assolutamente facile, a meno che non sei uno che possiede tanti immobili eccetera eccetera, perché la banca vuole tantissime garanzie. E infatti questi che venivano tramite agenzia non avevano garanzie sufficienti, poi è capitato così parlando con uno che abita nel mio palazzo stesso, l'ha comprata la figlia, capito? E sta bene perché lavora alla regione, lavora per conto alla regione, tipo tua figlia. E niente, parlando così, ma sta cercando qui la Magogia a casa. Ma scusa, non ti dico che stavo vendendo io. È vero, ma glielo dico di venire a vederla. È venuta a vederla, da me non c'è da fare niente, perché tu già sei venuto, porte nuove, pavimenti nuovi, il bagno era stato rifatto 2 anni fa, era nuova, è venuta, gli ho detto l'importo, metto, ma davvero, sì, a me mi dai questo, io non mi interessa. Ho detto, guarda, domani vado in banca, mi faccio un giro di conti perché ho dei soldi, insomma devo fare un'operazione, ti faccio sapere. La settimana dopo mi ha chiamato, mi ha detto, prendi appuntamento per fare l'altro e compro la casa. Ho detto, no, ma stai scherzando? No, non sto scherzando, prendi appuntamento e compro la casa. Ho avuto un sacco di fortuna, capito, perché altrimenti non ce l'avrei fatta a venderla. C'è gente che ci piega anni a vendere una casa, non è semplice, guarda. È meglio così, magari un po' perché magari ci abitava il genitore di questa ragazza, un po' perché gli è piaciuta e ha avuto l'occasione, l'ha presa al balzo, l'ha presa e se l'ha comprata e ha fatto bene così, lei ci sta bene, tu ci sei stato bene perché avevi deciso di venderla per poter realizzare quello che era realizzato e avete fatto due cose. Siete tutti e due soddisfatti, sia la ragazza che ti ha comprato la casa e tu che hai realizzato e te ne sei comprato un'altra, tutto lì o qua. È così che funziona la vita. Alle volte uno non riesce a venderla in 10 anni, poi capita magari in 2 giorni riesce a venderla una casa. Non è semplice, qua non è un'automobile questa e vai te la compri così a rate perché costa 20.000 euro, no? La casa costa quello là, ci vuole un pacchetto pieno di soldi per poterla comprare, così qua. Si conferma. Sì, beh, i genitori abitano al terzo piano e lei al secondo. Quindi contentissimo anche che sia il grande, un anno più grande di mia figlia. Capito? Quindi è contentissimo anche se i genitori sopra e molto bene, fatto il padre, diciamo mi ha fatto tutto lui perché c'ha un bel manualità, il padre della dipendente di Edil Marras, quindi sa fare muratore, sa fare carpentiere, mi ha fatto un sacco di lavori qua. E beh, questa praticamente era già presa, solo che non avevo grandi disponibilità, sì, facevo delle cosette piccole, sempre andando avanti, però non avevo disponibilità grande da poter investire denaro per finirla. Quando ho venduto, in giro di un mese è stata finita tutta completamente. Capito? Tutto qua. Infatti io sono venuto ad abitare 2 mesi dopo. 2 mesi dopo perché c'erano ancora i muratori, stavano finendo, eccetera. Infatti mi pare Roberto era venuto con me, dovevamo portare non so che cosa e non era ancora finita. E vabbè, che ora si è fatta? Sono le 9:20, meno 18, dai, meno 18. Per cui, sai la roba, le 8, volevo dire quella roba, le 8 meno 18. Vicino alla cena siamo, vicino alla cena. Comunque ce n'è un'altra vicino a te, cioè vicino a dove eri tu, di appartamento che stanno vendendo, né più né meno come quello tuo, anche quello in ottime condizioni, benissimo, proprio alla grande. L'unico problema è perché se ne vogliono andare, non perché non le piace più la casa, ma perché ci sono, dice, delle persone che abitano nel piano sopra che sono un pochino maleducati, che fanno un po' di chiasso, macchiare eccetera, trascinano mobili, trascinano sedie, insomma, e queste sono due persone di una certa età e vogliono tranquillità eccetera, e loro se la stanno vendendo proprio lì nel palazzo lì a fianco dove abitavi tu. Ce n'è anche un'altra proprio lì nel mio condomino che stanno vendendo, mi stava dicendo il padre di questa ragazza proprio venerdì, siamo visti a prendere un caffè, adesso mi domando, vado lo stesso con lui a caffè, caffè domani mattina, col padre di questa ragazza non ricordo. No, io guarda, 30 dall'87 lì ti dico che sono stato sempre. sempre, sempre bene. Mai avuto problemi con nessuno, chi abitava sopra di me, grandi signori, io non ho mai disturbato nessuno, però la mia cosa era avere una casa, non più il condominio, basta. Anche perché col mio cane, a me piacciono gli animali, quindi mia figlia ha deciso di prendere due oche e metterla nel giardino. Vediamo cosa è stata fuori col cane, vediamo un po'. Per dirti, a me piace avere così, lo spazio che ho è troppo bello e veramente sto benissimo giù. Va bene così, però per quanto riguarda il condominio sono in buonissimi rapporti, anche con l'amministratore mi ha chiamato l'altro giorno che hanno chiuso il bilancio a conguaglio, mi spettano indietro 300 euro di euro, ma adesso tolgo i soldi dell'acqua degli ultimi due mesi che si è rimasto e poi ti faccio il bonifico e te li restituisco, per dirti. Io non ho mai avuto problemi. Era una cosa mia personale già da tanti tanti anni. Avere questo spazio per me che è oro, perché io mi alzo la mattina, poi sportellone e vedo verde, non vedo macchine parcheggiate e gente attende a fare in ascensore, no, assolutamente no. Beh, certo che sì, vediamo quello. Hai realizzato quello che avevi deciso di fare, e l'hai fatto, hai fatto bene. È così qua, la vita. Nella vita bisogna sempre cercare di migliorare. Tu hai fatto un miglioramento non indifferente, non perché prima stavi male, ma perché adesso sei veramente indipendente, nello senso della parola, proprio come hai detto tu, senza condominio, senza cose, senza rotture di scatole da parte di nessuno, fai quello che ti pare, ti piace, quando e come vuoi. Prima invece magari, anche se i condomini che c'erano lì dove abitavi era gente seria, gente onesta, gente tranquilla, però c'era sempre da prendere una decisione anche con l'opinione degli altri. Invece in questo caso qua sei tu, è roba tua, contro tua, e fai con le tue idee tutto quello che credi, per cui va benissimo, hai migliorato, boh, basta, il punto è quello, hai migliorato. Si conferma, speriamo Gesù Cristo ci lasci sani, a godizia, metti di seguito. A proposito di agodizia, a 30 anni, e sai niente se fanno la cavalca, cioè la come si dice, della festa ai cavalieri, no? Ma ancora non ho sentito niente, ma non credo che ne fanno, non credo anche perché i contagi stanno di nuovo aumentando. Hai visto il sindaco adesso dice bisogna mettere la mascherina, troppa libertà hanno dato tutti una volta adesso, e poi c'è questo fatto della variante, non credo che permettano di fare, ed è un peccato perché è una festa che a stato le manca, e non solo quella, manca anche la cavalcata, peccato veramente, ma speriamo che questo contagio con questo virus sparisca il più presto possibile, perché adesso stiamo andando già a livello di 2 anni e non è poco, ha fatto un danno straordinario, non solamente per noi Sardegna, ma per tutta l'Italia e per tutto il mondo intero. Speriamo bene, Claudio, non so cosa dire. Ho visto videolina di Senatore Nuno, mi pare Ghilazza, boh, qualcosa del genere. C'è stato un focolaio, una 50ina di persone sono nuovamente in quarantena a causa di una festa di laurea. Si sono riuniti 120 persone, se ne sono contagiati 50. Boh, è tutto. A Ghilazza, i giovani, quelli che poi si vantavano, noi siamo giovani, non lo possiamo prendere il Covid perché siamo giovani, siamo forti, e invece se ne sono contagiati una 50ina. Allora il sindaco di Ghilazza si è rotto le scarpe e ha detto, allora, siccome Roma ha detto che si può uscire per strada senza la mascherina, e invece io vi impongo di usare la mascherina. Qui a Ghilazza bisogna usare la mascherina, ha deciso così il sindaco. È giusto che sia così, ma anche a Sassari secondo me, perché io scendo, vado a Sassari per dire una settimana, due, tre volte, non di più, poi io sono sempre isolato, eccetera, mia moglie non esce, faccio quasi tutto io, mia figlia ha fatto i vaccini già, perché è l'attività che ha, è chiaro deve farli, però mi ha detto guarda che papà è una porca porcheria, perché tu vieni dalle 9 in poi, dalle 10 in poi in Piazza d'Italia, sono tutti ragazzini, tutti senza mascherina, tutti ammontonati, tutti lampadi, proprio lampadi. È stata una cosa negativa, secondo me, togliere la maschera all'aperto. La maschera andava lasciata ancora tutto quest'anno, tutto quel periodo estivo. Usi la mascherina, tranne al mare, che c'è la distanza, che non si è attaccato uno all'altro, a meno che non vai alla Birosa, ma anche alla Perosa è ingresso limitato. Ok, ma nelle altre spiagge che sono grandi c'è la distanza di sicurezza, quindi va bene. Ma in città, soprattutto in città, visto che l'hai lasciata nei posti pubblici, che bisogna entrare nei locali pubblici con la mascherina, la dovevi continuare a lasciare anche all'esterno. E tu vedevi che non succedeva niente. Invece secondo me, noi che ci fio siamo d'ora tutti in quarantena. Vai a vedere tu, la gente va a usare sostituire ad agosto. Sì, ma sicuramente sta già aumentando. Oggi sono 43 contagi, ti puoi immaginare, ieri ero 51. Per cui vedi bene che a questo punto qui in Sardegna, parlo di Sardegna, e anche in Italia stanno aumentando, hanno aumentato molto anche i contagi, ma è così. No, non è, c'è troppa incoscienza, guarda, no, non è possibile. Queste ragazze, soprattutto se sembrano che non fanno presto, non sono contenti. Ma Dio quali ci siamo stati tutti, ragazzi, ma dai, ci vuole un po' di responsabilità, questo bisogna. Questi oggi non ne hanno di responsabilità, anzi non hanno giudizio addirittura. Mi permetto di dire che non hanno giudizio. I ragazzi sono completamente incoscienti. Prendi quello l'altro giorno in via, con il corso di come si chiama, Margherita di Savoia, quello che si è sbattuto la macchina che era parcheggiata ed è morto un ragazzo. Ma lo sai com'era seduto quel ragazzo? Sullo sportello era seduto, visti erano imbriachi, facendo festa dopo la qualificazione dell'Italia, alle 2 del mattino si sono sbattuti e si è ammazzato un giovane di 19 anni, che poi tra l'altro l'autista era un neopatentato, per dirti lo qua, sono incoscienti. Non sapevo questo, che era seduto nello sportello, proprio domani. Perché è così, cioè non pensano assolutamente. Cioè per fare queste cose bisogna far funzionare un gabbo, non ripeti, perché basta un attimo, basta anche perché non hai esperienza a guidare una macchina, a metterti a correre, a fare un macco. Cioè non, veramente, 19 anni è una cosa bruttissima da sentire, perché sei nel fiore proprio della giovinezza. Poveri genitori, cazzo, poveri genitori. Hai detto bene, poveri genitori, è vero, hai detto bene. Però diciamo che una grossa percentuale di colpe ce l'hanno anche i genitori, perché secondo me non le hanno saputo educare, perché queste ragazze di oggi sono proprio una vergogna, sono. Già l'abbiamo visto, stanno crescendo adesso le bande dei 14-15 anni, lì che vanno in giro a picchiare gli anziani, a picchiare addirittura le forze dell'ordine. Ma quando mai? Se 60-70 ragazzi tutti in una botta e allo grido ti mettono in mezzo e ti sistemano. Ti permettono di fare la pipì sulla porta della gente, così, e questo lo fanno sia le donne che gli uomini. Ma quando mai? Ma che razza di mentalità hanno queste ragazze di oggi? Io non riesco a concepire, guarda. Già le leggiamo sui giornali, io lo racconto tutti i giorni i giornali, anche se non leggo al computer, però sempre le notizie della Nuova Sardegna sono, per dirti no. Non è possibile, guarda. È così, quello stava scappando, perché a quanto si dice, hanno visto la forza dell'ordine durante la notte, dai, erano imbriati evidentemente, oppure erano drogati, e che lo sa, hanno incominciato a correre, e gli hanno abusato in mezzo allo sportello, evidentemente le forze dell'ordine se ne sono accorti, forse li hanno seguiti e loro stavano scappando, e si sono scebitati, ecco com'è, qua. Non è possibile, guarda. Mamma mia, che cose brutte, per carità, guarda. Cose veramente assurde, si potrebbe far funzionare un po' più la testa, forse gli incidenti diminuiscono, perché non solo quello, fare così dicevi, ma tu li vedi a telefono in mano guidando la mano, con il telefono attaccato alla reggi, così con la spalla e guidando la mano, capito? Io anche l'altro giorno ho ripreso una ragazza in via Levante. L'ho vista che stava attraversando, ha telefono in mano, non ha guardato fermato se stavano arrivando macchine, no? Siccome c'erano le frecce pedonali, io chiaramente mi sono fermato, ho passato il finitivo, ho detto la prossima volta il telefono tienilo in tasca, attraverso le frecce pedonali come hai fatto, però guardando la strada, perché non ti sei degnato neanche di guardare se stava arrivando una macchina, o cosa pensi perché se nelle frecce pedonali non ti mettono sotto? Mi scusi, stavo rispondendo a mia madre, le rispondevi dopo a tua madre, stai attenta, gli ho detto, stai molto attenta, perché è pericoloso, a parte il fatto che è un reato usare il telefono mentre cammini in strada, ok, gli ho detto, e poi bisogna stare attenta perché non tutti si chiamano come me, che si fermano e ti fanno passare, dei gatti viaggiano in gruppi, gli ho detto, in Sassarese. Sì, ma guarda, un fatto del genere è successo l'altro giorno, fermato lì al passaggio pedonale per far attraversare una persona, arrivo e questa macchina dietro, una ragazza dietro, ma cosa ci diventi su? Non è che mi sono fermato per far attraversare il pedone, beh, questa deficiente non ha sorpassato, ma mi si mette sotto il pedone, fortunatamente il pedone se ne è accorto, se no l'avrebbe falciato, l'avrebbe anche ammazzato, per dire, era dietro questa macchina, io mi sono fermato per farla passare e lei no, secondo me io non mi dovevo fermare, allora cosa ho fatto? Ha scherzato e sono passato sulle strisce pedonali mentre stavo passando questo pedone, fortunatamente non l'ha preso, per fortuna veramente, ma è una cosa dell'altro mondo, e questa era una ragazza alla guida. Guarda che le ragazze sono peggio dei ragazzi, cosa pensi, siano più attenti o più deficienti sono, pensano di fare chissà cosa, ma per carità guarda, perché ma anche via Carlo Felice l'altra volta che io stavo salendo si è fermato il tram, io mi sono fermato perché mi sono messo dietro, non c'era lo spazio perché stavano scendendo altre macchine, e gli dico ma te si sovendi, un uomo anziano, grande, ho tirato il freno a mano, me ne sono sceso e ho detto, mi scusi, è il tram, guardate che è fermo, cosa facciamo, ci mettiamo a sorpassare, a fare le gare, ecco faccela bravo, e non ripuscio, capite? Cosa ti metti a suonare? Cosa ti metti a suonare? Cosa pensi di fare le gare? Aspetta che parte il tram e poi ci mettiamo dietro e quando è il momento di spostarti e di sorpassare lo sorpassi. Capito? Oh, io non sopporto quelli al semaforo. C'è il rosso, no? Scatta il verde. Me vai morire prima, a me vai a rubare la visione, cosa ti vuole suonare? Mi non faccio l'elicottero. Sì, ci sono queste persone così maleducate, perché questa è gente maleducata, gente che non sa guidare, o perlomeno si comporta malissimo, anche se magari i comandi della macchina li sa usare, però se uno si comporta in questo modo io per me non sanno guidare, perché non è così che si guida, uno deve avere calma, deve avere tranquillo e pacifico, pazientare anche se trovi una persona anziana che guida lentamente, perché ci sono queste persone, magari se ne escono da un incrocio, se ne escono così, ti si mettono davanti, tu stai arrivando e magari ti spazientisci perché quello continua a camminare a passo di lumaca, ma purtroppo è una persona anziana, cosa ne vuoi fare? Lascialo fare, basta, perché tu lo suoni, è ancora peggio, quello lo impappini e succede che ci si abiteggia, invece no, purtroppo non, la gente non ha pazienza e diciamo che l'automobilista dovrebbe essere un pochino più calmo, cercare di sì, capisco che alle volte danno fastidio, ma non puoi sempre avere tu campo libero a guidare come vuoi tu, la strada è di tutti, per cui lasciamo guidare anche quelli che sanno guidare di meno o che guidano più lentamente, è così che bisogna andare avanti con la testa o qua. Lo so, ma non tutti hanno la testa per poter capire che basta un attimo di disattenzione per causare un incidente, non a te ma anche agli altri, tutto lì, capito? Va bene, Mastro Giù, grazie delle due chiacchiere, ti ringrazio vivamente, saluto tutti quelli che sono all'ascolto, se c'è qualcuno, io vado a innaffiare un po' fuori, dai, che ho visto che si è calato il sole, c'è un po' più di fresco, così poi prepariamo la cena, ok? Grazie di tutto, ci aggiorniamo domani, se Dio vuole, siamo qua. A te Giulia, ascolto il finale e poi chiudo. Buona serata a tutti. Ok, ciao qua. Grazie a te per la chiacchierata, dai. È sempre un piacere discutere con te. Salutoni e entra però, non farti desiderare, perché te l'ho detto una volta, capisci quello che intendo dire, no? Ti dico solamente la parola con la sillaba iniziale, ti, poi completa tu la parola, non dico altro. Ciao, grazie per a te per la chiacchierata, dai, saluto in casa, ancora auguri per la casa, ci sentiamo, ciao, ciao. Già, io già ho capito, ma hai ripetuto un sacco di volte quella frase, lo so, però in questo periodo un po' la voglia viene a mancare, forse con la stanchezza. Ti ricordi quando ero su un'altra casa, ero molto più radio, adesso un po' di meno, però dai, già vi ascolto, già entro a salutarvi, no? Non c'è problema, due chiacchiere già ce le facciamo lo stesso. Ciao, un abbraccio grande, a domani Giulio, ciao, buona serata, buona cena, buon tutto, saluti a casa. Ok, grazie di tutto, qua, alle prossime, di cambiarti il tutto al 100%, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Hola, station my friend, ascolto Italy from Salvini.